Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Adesso le capita di passeggiare per la città e dire questo io non l'avrei fatto? Sì, quando guardo le buche e dico che bisognerebbe ricoprirle. Senta, invece questo avrei voluto farlo io? E coprire più buche. Era la Moratti ieri nel faccia a faccia qui da noi. Le buche sono un incubo per sindaci, ex sindaci, tutti i sindaci d'Italia. Ma a Roma la situazione è molto più drammatica. A Roma il traffico va in tilt, soprattutto si aprono buche, voragini, smottamenti. Roma è un disastro, è un colabrodo. Soprattutto in periferia, ma anche diciamo la zona della Salaria, prima porta. Restituiteci una Roma decente dal punto di vista della viabilità. Via del Foro Italico, della Trionfane. Perché io devo vedere la mia città ridotta veramente un colabrodo? Pineta, Sacchetti, Saxa, Rubra e dicevamo anche in centro. Al momento risulta drammatica, è quasi impossibile veramente percorrere determinate strade. I danni di questi nubifragi su Roma, oltre 240 milioni di euro, subito sono stati stanziati 10 milioni, ma sono pochi. La risposta delle istituzioni è sempre questa, non ci sono i soldi. Allora, se non ci sono i soldi siamo un paese da terzo mondo, va bene? Praticamente Roma sembra uscita da un bombardamento. Paese del terzo mondo, oggi per parlare del disastro di queste piogge stanno facendo nelle nostre città, dove le autorità non riescono a far fronte ai danni e soprattutto alle condizioni pietose delle strade. Abbiamo scelto Roma come simbolo capitale di questo disastro, ma è inutile parlare con le autorità, dicono sempre la stessa cosa. Parliamo con chi lavora, vive sulla strada, uno per tutti. Un tassista, Italo Dominizi, 800 24 00 24, per chi vuole chiamarci, 349 238 6666. Italo, dov'è in questo momento? Buongiorno dottore. Io niente, sono in questo momento a Roma, al centro di Roma, Piazza Fiume. È davvero, sì. Mi dica. No, dico, è davvero pericoloso girare per Roma in questi giorni? In questi giorni, dove poi continua la pioggia, viene coperta, le buche vengono coperte da quest'acqua e ovviamente sono improvvise, per cui la periferia è un colabrodo, ma soprattutto poi invece di fare manutenzione vengono chiuse delle strade e per cui l'offerta non c'è, nel senso, per cui salta il traffico, diciamo, salta tutta la viabilità di Roma, per cui si trovano in gorghi. Adesso venivo da Piumicino e c'è praticamente dal raccordo fino allo svincolo della Colombo, praticamente è un tappeto di macchine. Ma voi vi segnalate i pericoli fra di voi per le strade, per evitare percorsi, cercate di aiutarvi? Allora, noi siamo in collegamento, fortunatamente adesso con internet, siamo in collegamento con vari colleghi, diciamo con WhatsApp, che ci aiuta a evitare alcuni intoppi e riusciamo così a evitare un pochino di traffico, un po' di diciamo anche malumori dei clienti, certo. Ovviamente si allungano i tempi per andare da un posto a un altro, insomma, ecco questo qui. Ecco, 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666. Italo, ma quindi la viabilità di Roma praticamente con le strade chiuse, la soluzione di chiudere le strade è cercare di chiudere gli occhi per non vedere i problemi? Penso che adesso le autorità stanno facendo questo e non fanno manutenzione, non fanno nulla. E purtroppo, poi non solo questo, ma ci troveremo quest'estate o comunque prima dell'estate con le macchine che andranno in rovina, perché ovviamente prendendo tutti i giorni buche, noi che facciamo dai 100 ai 200 km al giorno dentro la città o comunque in periferia dove c'è ancora più il problema, e troveremo quest'estate rotture di auto che... E l'amministrazione è assente? È assente, non danno neanche, addirittura uno quando prende una buca che rompe una gomma, un cerchione, non danno neanche il modo di recuperare questi soldi, perché è

Staffan De Mistura, buongiorno. Ecco, di nuovo a Delhi, ancora lì in prima linea. La prima volta che i Marò però dicono non siamo responsabili. Che cosa vuol dire? Che loro si ricordano molto bene come è avvenuto l'incidente e si ricordano molto bene di aver sparato in acqua nei confronti di una potenziale minaccia proveniente da una imbarcazione che si dirigeva direttamente verso la Lecchi. Ecco, ma dottor De Mistura, ma l'accusa di terrorismo significa che l'Italia è uno stato terrorista allora? Perché loro erano militari, sono militari. Esattamente quello che lei dice, ed è l'argomento forte che stiamo utilizzando e nel quale, devo dire, da parte dell'accusa indiana sono caduti, nel cercare di trovare una scorciatoia che si chiama legge antiterrorismo per poter arrivare a un capo d'accusa che non esiste. Ma questa scorciatoia, cioè mi faccia finire ancora, usare la legge antiterrorismo, conferma quello che le ha detto, ci dà l'opportunità che stiamo usando di dire ma come? Due fucilieri marina che erano impiegati dallo Stato italiano per difendere contro il terrorismo, contro i pirati accusati di terrorismo, e tre, usare, e quindi l'Italia diventerebbe uno Stato. Un paese terrorista. Ecco, ma significherebbe che finisce l'impegno dei paesi nella lotta alla pirateria se l'Italia fosse considerata un paese terrorista. Diciamo che crea un tale precedente di pericolo che non soltanto l'Italia, ma tutti gli stati che si occupano insieme all'Italia, compresa l'India, di combattere e prevenire sia il terrorismo che la pirateria, potrebbero essere accusati da una legge antiterrorismo semplicemente per un incidente in acque internazionali. Certo. Paradossale. Senta, ma l'Unione Europea può accettare una cosa del genere? L'ha già dimostrato, non lo accetta, tanto è vero che è uscita una dichiarazione ferma e chiara della baronessa Ashton ed è arrivata una dichiarazione chiara del presidente Barroso. In poche parole, in questo caso noi abbiamo due italiani, non soltanto, due militari italiani, non soltanto, ma due militari italiani europei accusati tramite una legge di terrorismo per un incidente avvenuto mentre facevano le loro funzioni in acque internazionali. Ecco, ma perché non può non essere con ecco, noi. Ma perché c'è voluto tanto tempo, dottor De Mistura, per muovere queste alleanze internazionali che potevano essere evidenti immediatamente? Vede, perché fino all'8 gennaio, sì, gli indiani non avevano di fatto usato la legge antiterrorismo da parte dell'accusa e di conseguenza c'era la tendenza da parte di molti dei paesi alleati a considerare questo un incidente bilaterale tra due nazioni che poteva essere risolto in maniera bilaterale. Nel momento in cui hanno fatto il grave errore di usare questa scorciatoia, tentativo di scorciatoia, perché la Corte Suprema dovrà decidere se è veramente da usare, certo, della legge antiterrorismo, e scatta a quel punto lì inevitabilmente la solidarietà e il, diciamo anche lo sdegno internazionale. Senta, dottor De Mistura, però il ministro Terzi, che all'epoca era ministro degli esteri, accusa direttamente Monti di aver abbandonato colpevolmente i Marò. È stato così in qualche modo? Vede, non è il momento, io ho cercato di dirlo e ricorderò anche al ministro Terzi, all'ex ministro Terzi, questo non è il momento di tornare a domandarsi cosa dovevamo fare o non fare, perché tutti hanno delle domande da farsi, compreso molto il ministro Terzi. Non è il momento, è il momento di essere uniti, di guardare avanti e di essere uniti, come ce lo chiedono i Marò, del resto, ad affrontare questa per prova, portarli a casa, insomma, provare a portarli a casa. Senta, però i legali della Marina Militare fin dall'inizio suggerivano di ricorrere al Tribunale Internazionale ONU del Diritto del Mare di Amburgo. Perché non è stato fatto? Ci sono vari motivi per i quali non è stato fatto. Uno era certamente che c'era bisogno di una massa critica internazionale sufficientemente forte per poterlo fare. La prima era al momento in cui erano ancora a bordo della Lexie. Nel momento in cui hanno toccato, ahimè, terra con i loro piedi sul territorio indiano, di fatto abbiamo avuto questa assoluta ambiguità. Da un lato noi rifiutiamo fortemente il fatto che la legge indiana venga applicata, che venga invece applicata la legge italiana e la legge internazionale, e dall'altro, di fatto, dato che sono in un tribunale indiano, di fatto, perché abbiamo degli avvocati indiani, stiamo seguendo anche la procedura. Ecco, dottor De Mistura, c'è Mario Secchi che vuole farle una domanda. Buongiorno. Prego. Quale sarebbe la soluzione più equa, visto che alla fine abbiamo deciso di trattare, appunto fargli toccare terra ai marinai e farli giudicare dalla giustizia indiana? Veramente devo correggere, perché non è esattamente così. Fu fatto l'errore, chiaro, di farli scendere a terra, certo. E de facto avvenne questo, ma non abbiamo mai accettato la giustizia indiana, abbiamo sempre mantenuto questa posizione. Questo era anche il tempo del ministro Terzi, questo va riconosciuto. Detto questo, la soluzione più equa è quella prevista dalla legge internazionale, che vuol dire che quando un incidente avviene in acque internazionali, è lo stato di bandiera, in questo caso, e quindi l'Italia, che deve giudicare. E quindi l'obiettivo è quello. Grazie, dottor De Mistura, auguri. 800 24 00 24 349 238 6666, l'SMS. Maria Grazia Coggiola, collaboratrice dell'ANSA da Delhi. Ecco, hai sentito quello che ha detto Staffan De Mistura, ma c'è qualcosa da aggiungere a questa versione, diciamo così, ragionata ma ufficiale? Sì, secondo me c'è da aggiungere qualcosa sui tempi, che è vero che l'Italia ha di fatto stoppato, diciamo, questo tentativo dell'India di aprire la legge draconiana chiamata sua ACT, con un ricorso alla Corte Suprema, però i tempi rischiano di allungarsi notevolmente. Quindi questo è il rischio. Sì. Ma qual è il clima oggi in India intorno al caso Marò? Se c'è un clima, diciamo, perché da noi certamente, ma può darsi che lì sia sotto traccia. L'India è un paese che si muove lentamente anche sulle reazioni internazionali, le dichiarazioni di Letta oggi trovano spazio sui giornali e anche sulle televisioni, sono dichiarazioni dure, dicendo che insomma è un po', certo, sì, dice che questa posizione è inaccettabile, eccetera. Il governo indiano da giorni ormai è silenzioso su questo aspetto, però io mi aspetto, conoscendo un po' gli indiani, che reagiscono abbastanza duramente a rigidimento anche dell'italiano, sicuramente reagiranno, e oggi stesso probabilmente ci sarà anche occasione, perché c'è un incontro con i giornalisti indiani. Ecco, però qualche giorno fa, settimana scorsa mi pare, c'è stata una delegazione parlamentare italiana, tanti deputati italiani sono venuti in India per sostenere i Marò, però se non ho capito male sono arrivati in India durante un periodo di festività, è così? Sì, la scelta del periodo è stata effettivamente un po' infelice, se lo scopo era quello di fare diplomazia parlamentare, quindi usare insomma i parlamentari per fare pressione, perché in realtà non hanno potuto incontrare nessun indiano. Quindi non sapevano che c'erano delle feste e non hanno incontrato nessuno, diciamo. Praticamente sì, questo è vero, e anche loro stessi in un comunicato alla fine della visita lo hanno detto. Hanno anche lasciato intendere che c'è stato anche un poca collaborazione da parte degli indiani. Questo, vabbè, se era a vacanza, naturalmente. Era in gita. Saranno stati fuori. Sì. Ecco, tu vedi tutti i giorni Massimiliano e Salvatore, come stanno loro? Devo dire che dopo la visita della delegazione bicamerale, insomma, il morale si è un po' sollevato, perché sono stati molto contenti di vedere, insomma, a parte di vedere molti parlamentari, poi anche soprattutto l'unità dell'Italia, e hanno insistito anche su questo fatto, insomma, che quando gli italiani vogliono sanno essere uniti. Poi in questi giorni c'è stato un via vai enorme di giornalisti, c'è il dottor De Mistura, il ministro della difesa ieri, quindi insomma c'è stato molto movimento. Però devo dire che quando insomma i riflettori si spegneranno, perché questo succederà, è inevitabile, non che si può tenere questa attenzione costantemente tutti i giorni, è chiaro che secondo me c'è in cuor loro così un momento, non dico di depressione, però sicuramente, anche se sono militari, sono chiaramente abituati anche a questo tipo. Certo, però naturalmente. C'è Buttafuoco che vuole farti una domanda. Buongiorno, una domanda. Gli indiani come se lo spiegano, dato che in Italia nessuno è riuscito a spiegarlo bene, un fatto preciso, e cioè perché due fucilieri, due nella creme dell'esercito italiano, stavano su una nave di un privato e non sicuramente in uno scenario, in un teatro di guerra? Perché? Come lo spiegano gli indiani? E questo è un fatto che si ritorce contro di noi, perché ogni volta io, parlando con gli indiani, dico: loro sono due soldati, sono due militari, rappresentano lo Stato italiano, e loro mi dicono: e cosa ci facevano a bordo di una nave privata? E lei cosa risponde? Questo è proprio un punto che gli indiani che non capiscono e non accettano neanche, e dicono: ma è solo l'Italia che fa queste cose. E perché noi italiani infatti non riusciamo a spiegarlo questo fatto, neppure noi stessi? Non lo so, ma cosa è stato spiegato anche nelle aule del tribunale, sono state evocate le leggi italiane, eccetera, però in realtà è vero che questa è un'anomalia e gli indiani non mancano occasione di ripetere sempre di, insomma, questo problema. Va bene. Grazie Maria, grazie, ci risentiremo se ci saranno ancora novità. La notizia in 3D naturalmente è stata curata come sempre da Sara Tardelli. Le buche di cui abbiamo parlato prima hanno aperto un grande dibattito fra i nostri ascoltatori, ci torneremo sicuramente perché è un vero problema. Mix 24. Loro e tu lì, tu lì, tu lì, tu lì, fai. Mormora ancora e tu lì, tu lì, tu lì, tu lì, fai. Oh, il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Parlano d'amore, tu lì, tu lì, tu lì, tu lì, fai. Allora, Pietrangelo. Pietrangelo, allora, questa canzone per dirci cosa? Per dirci che piove e intanto è tutto un frusciar di gambe, un rumoreggiar di donne, piove, ci sono le buche come fossero ricordi di bombardamento, e insomma, però il clima d'anteguerra c'è, e quello che succede al Quirinale, quello che succede a Palazzo Chigi, e il rumoreggiar di donne diventa un rumoreggiar di bande e un frusciar di carte in arrivo. Io pensavo dicesse di calze in arrivo, invece niente. Carte, procure, veline e scoop, libri, vecchi, libri. Libri, scoop ripubblicati. Beh, ma che cosa bolle in pentola Mario oggi? Lui ha evocato le carte, governi. Ne ha parlato un po'. Sono in corso le cosiddette governiali. Quindi, senti, gli orizzonti di gloria di chi? Non lo so, io vi pongo una domanda, un elemento di dibattito, come suol dirsi. Ma è finita la corsa di Letta o no, caro Buttafuoco? È una domanda che avremmo potuto porre alla Sibilla Cumana. Andiamo dalla Sibilla e porremo questo quesito. Durerà? Sei sempre misticheggiante. Ma vediamo. Che misticheggiante, no? Senti Mario sì. A proposito del Marò, però sì, noi non abbiamo chiesto a De Mistura se il problema non è quello delle tangenti finmeccaniche, se non fosse lo Stato indiano. E non lo so, sai, c'è possibile che ci sia questa variante in più? So che il business è sempre molto importante quando fai azioni diplomatiche. Più business hai in un paese, più influenza puoi avere. Quindi noi ne abbiamo avuto poca, purtroppo. Questo è un tema. Però io chiedevo a Buttafuoco, che ha fatto il misticheggiante, se era finita o no la corsa di Letta, perché comunque le governiadi si stanno svolgendo in queste L'unica ore. Cosa vera è che ci sono soltanto tre attori a giocare in scena, cioè Silvio Berlusconi, Beppe Grillo e Matteo Renzi. Tutto il resto è contorno. Perfino Napolitano magari, non lo escluderei. Ma Napolitano adesso è costretto ad avere il ruolo di super segretario del Partito Democratico. Sì, non so. Cosa ne dici, no, Giovanni? Io penso che il governo Renzi sia sempre più vicino. Anche perché io ho l'impressione, magari anche che i nostri ascoltatori, l'alternativa si fa stretta, se l'altra è votare, ma votare con quale legge? No, e quindi anche io sono d'accordo su questa linea. Il problema è arrivarci. Con Come? I salamini o senza? Con i salamini, naturalmente. Oggi i salamini trovano contenuto dalla lettura di pagina 18 del Fatto Quotidiano, dove c'è una bellissima lettera ispirata di Antonio Ingroia sulla vicenda di questo greco che piace a tutti, Tsipras, con la sinistra radicale. Che sembra che parli solo greco, però. Lui greco parla, sì, greco, molto greco, parla greco, certo. Sì, è come greco. Il greco cerca greca. Perché vedevo queste conferenze Cicco Busca stampa. Cicca. Cicco sì, ma è bellissimo, Cicca. Perché sono tutti eccitati questi della sinistra radicale che stanno lì. Tutti belli, contenti, Papa finalmente. Hai ragione, hanno trovato. Ma quella è una fissazione con questi stranieri. Sempre. Perché ti ricordi, prima erano innamorati di Zapatero. C'è un lungo elenco. E c'era l'Italia zapateriana. Poi adesso è arrivata l'Italia di Tsipras e ora ci sarà in futuro... Ma voi vi considerate italiani? Perché ci sarebbe la Murgia, che in fondo no. è su questa stessa linea. L'indipendente isola di Sardegna. Ma insomma, fare. Ingroia... E quindi Ingroia fa tutta sta lettera con un... C'è un popolo che, c'è un popolo che, c'è un popolo che, sembra una cantata, tant'è vero che mi confermo nella mia idea che ormai lui è buono per andare a cantare nei matrimoni, ma sempre nella stessa pagina, che è un mestiere onorevole, vi segnalo una meravigliosa lettera di Roberta De Monticelli, filosofa, a Massimo Cacciari, che essendo stato ospite anche di... Anch'egli filosofo? Anch'egli soprattutto... Mm-hmm. È ospite di 8:30 adesso condotto da Lilli Gruber, poi per inciso lei dice una collega illustre eccetera eccetera, dai, no, collega lei no, Garrula, chissà a cosa si riferiva, comunque che la Monticelli fa queste cose, le dedico le sorelle Marinetti, non me ne importa niente. Tutti vogliono parlare, tutti vogliono criticare e se mondo ma non me ne importa niente. Vabbè Mario, dai, varietà. Andiamo con un'altra varietà bolla. E varia umanità. Sentiamo. Controllo. La BBC è una banca. Il loro obiettivo non è il controllo del conflitto, è il controllo del debito che il conflitto produce. Se controlli il debito, controlli tutto quanto. È un'opera di Luca Barbareschi, se controlli il debito controlli tutto quanto. Sarà così? Vabbè, intanto abbiamo un'audizione per la prima volta di fronte al congresso di Janet Yellen, il nuovo capo della Fed. Il dilemma è sempre quello se continua o no la politica di tagli agli stimoli all'economia, quindi una politica monetaria diciamo più prudente per così dire, ma di continuo sostegno alla crescita americana che è comunque forte. Mario, però sarebbe secondo me molto interessante su questa vicenda della presidenza della Repubblica e questa vicenda della crisi del governo Berlusconi sentire anche Tremonti, che dici? Giulio? No? Sì, potrebbe perché essere. Raccontare la versione di Giulio. Oggi sul foglio. Sì, oggi la versione sul foglio di Giulio. La versione di Giulio. C'è l'introduzione al suo libro che sta per uscire, è molto bella, sulla crisi della contemporaneità. Sono 4 pagine pubblicate dal foglio, devo dire. Su queste cose Tremonti è sempre interessante. Tremonti lo aspettiamo. Certo. Lo aspettiamo. Mille lire al mese. Oggi tu tante guerre, eh? Dai. Beh, insomma, perché? Perché io sottopongo all'attenzione di Giovanni Minoli, di Pietrangelo Buttafuoco e di tutti gli ascoltatori il non trascurabile fatto che in questi giorni due istituzioni, diciamo così, non poco importanti, come la Corte Costituzionale tedesca e la Bundesbank, dicano sostanzialmente che la gestione dell'euro non è corretta, non va bene. Ora, non stiamo parlando di un paese come il Lussemburgo, con tutto il rispetto per il grande e piccolo Lussemburgo, ma del paese cuore dell'Europa e di due istituzioni fondamentali. Stamattina il Wall Street Journal diceva non cambia niente, ma sono americani. Il Telegraph diceva la BCE è paralizzata, ma sono inglesi. Noi italiani abbiamo Draghi, ma non lo difendiamo. E su questo punto, come non lo difendiamo? Non lo difendiamo. Lui è stato messo sottoposto a lunghe tensioni da parte sia della Bundesbank, del governo tedesco, della Corte Costituzionale. Mi pare che tedesca. Si difenda bene anche da solo. Meno male che si difende. Forse bene, è meglio che si difenda bene meglio. Da solo. C'è un silenzio mostruoso di tutte le istituzioni. Nessuno parla. La cosa sembra non interessare. Eppure, insomma, durante il periodo della crisi, nel 2011 in particolare, BCE ha comprato centinaia di miliardi di titoli di Stato italiani. Così lo segnaliamo come elemento. Ha dato una mano all'Italia, accidenti, molto seria. Accidenti seri. Taking care of business, sembra un po', no? Stiamo quasi in anni 70 con questa musica. In realtà c'è un mito, quello dei posti di lavoro part time. È vero. No? Cioè, tutti pensano che gli Stati Uniti creino questo tipo di contratto, diciamo. In realtà, attenzione, è il full time il re incontrastato. L'anno scorso i posti di lavoro creati in full time sono stati 1.800.000. Sai quelli in part time quanti furono? Quanti? 8.000. Cioè 1.800.000 posti full time. Cioè la ripresa ha portato al full time nel posto. Certo. 8.000 part time sono. 8.000 part time sono. Sì, sono dati sconvolgenti. Sconvolgenti, se non li guarda, però sono di più solo la RAI, non lo so. Ma perché vedi, è la gestione sbagliata della crescita economica che porta a questo tipo di cose. Canzoniere. Pietrangelo? Allora, aiutiamo gli ascoltatori. È un grande romanzo che è stato e diventato un grande film, anzi più di uno, ed è stato ed è diventato anche un grande fumetto. Chi indovina? 800 24 00 24 349 238 6666, leggi. Lasciato Monaco alle 20:35 del primo maggio, arrivato a Vienna l'indomani mattina presto. Avrei dovuto arrivare alle 6:46, ma il treno aveva un'ora di ritardo. Budapest sembra un posto meraviglioso, a giudicare dal poco che ho potuto vedere passeggiando nelle strade. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Io una bolla, vuoi? Io una bolla, la vuoi ancora? Ma sì, dai. Nestlé lascia L'Oreal dopo 40 anni. Cose grosse tra i giganti del consumo. Nestlé che cosa era? Questo per esempio. E per tutti, anche per voi, cioccolato Nestlé. Quanto è buono! Carosello. E dunque, L'Oreal che cos'era? Era questo. Capelli spenti? No. Innovazione L'Oreal, balsamo il Viv Crystal Gloss. Alimentare e cosmetica che si fondono insieme. Era un sodalizio che dura ancora da 40 anni, vende l'8% della quota, 6,5 miliardi di euro. Tutti si chiedono che cosa sta succedendo, anche perché quel titolo finora, dal 74 ad oggi, sai quanto ha reso mediamente? Quanto? Il 15%. Ah. Vogliono diventare ed è una delle cose più grosse che sta succedendo nel mondo della finanza. Vogliono diventare più sani e più belli. Può darsi. Mix 24 800 24 00 24 349 238 6666 l'SMS. Abbiamo il telefono, forse un vincitore. Alessandro da Brescia. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, dica. Io dico Dracula di Bram Stoker. Giusto. Posso azzardare un'ulteriore domanda? Sì. L'autore del fumetto, chi l'ha disegnato? Questo non lo so. Un grande italiano? Non lo so. Guido Crepax. Guido Crepax. Fece una versione del Bram Stoker. Non lo sapevo, del Dracula. Non lo sapevo. Vabbè, ha vinto lo stesso perché la domanda era l'altra. Il film Francis Ford Coppola, l'ultimo grande Dracula. Con una meravigliosa colonna sonora, aggiungo. Che è questa? Sì, Mina, questa. in regia sorridono perché ogni tanto tiro fuori, no, le mie tue cose grandi competenze. No, grandi non lo so, però ogni tanto dico: ma com'è che conosce questa cosa? Professor Doglio, Daniele Doglio, professore di economia dei media, per capire come gira l'economia nel mondo dell'informazione. Ecco, professore, continuiamo un attimo, abbiamo 4 minuti, a ragionare sui fattori cruciali dello scenario televisivo. Ecco, è arrivato il momento di mettere in discussione i dati d'ascolto dell'Auditel? Vista speravo la di grande... io il vincitore quando ah annunciato. Sì, la sapeva? Questa volta mi ero preparato. Ah, che peccato. Senta, no, è certo, insomma, è chiaro che bisogna tener conto che siccome sta della frammentazione tutto, dell'ascolto, no, dell'offerta. Beh, soprattutto sta cambiando tutto, quindi anche i dati d'ascolto che oggi misurano la posizione competitiva di un'impresa televisiva esclusivamente su valori quantitativi, sui famosi rilevamenti Auditel. Ora l'Auditel scusi, è ancora uno strumento apprezzato e apprezzabile per la televisione commerciale, anche se è molto rozzo e anche la pubblicità comincia a avere delle difficoltà, appunto perché è poco qualitativo, non dice granché su chi sono quelli che guardano, al di là di classificazioni generiche per età, scolarità, reddito, qualche incrocio è possibile, ma ormai la pubblicità punta decisamente a quella che chiamano i big data, cioè vuole sapere tutto, gusti, abitudini, comportamenti, idee, atteggiamenti dei singoli consumatori per cercare di raggiungerli con un'offerta, ecco, ma mirata. È questo strumento è in elaborazione, voglio dire, quando i grandi numeri delle televisioni generaliste saranno valutati così? È appunto quel percorso di integrazione verso una reale convergenza, perché questo tipo di informazioni sono raggiungibili esclusivamente attraverso l'adozione di metodiche internet, cioè è solo attraverso una relazione uno a uno, punto a punto, certo, tra chi emette e chi riceve, che è possibile costruire, in qualche modo disaggregare il dato quantitativo e trasformarlo in qualcosa di più fine, ecco, ma di più significativo. Appunto, però teniamo conto che per il nostro problema, per i nostri servizi pubblici, comunque il misuratore quantitativo è sempre stato discutibile, sì, parzialmente. Beh, proprio, certo, infatti in inizialmente modo c'erano anche i Qualitel, esatto, che poi sono spariti, diciamo, un'ultima cosa volevo chiederle, professore, ma quanto incidono appunto sui dati d'ascolto le altre piattaforme da cui si può vedere la televisione, tablet, allora, PC, smartphone? Noi non ne abbiamo ancora un'idea precisa, perché appunto ci vogliono delle tecnologie, software particolarmente raffinati, stanno cominciando a cercare di metterle sotto controllo, ma manca quella misura regolare, quella misura sistematica dell'ascolto, della fruizione, diciamo, su tutte le piattaforme. I risultati potrebbero essere interessanti, per esempio recentemente hanno pubblicato i dati di Arte, che è il canale culturale, sì, francese, un monumento, sì, al servizio europeo, pubblico, diciamo, sì, esatto, servizio pubblico europeo, finanziato direttamente dai governi francese e tedesco. Arte è un canale che ha sempre avuto una quota d'ascolto generalista abbastanza piccola, sì, tra il 2-3%, sia in Francia che in Germania. E quindi, professore, siamo in chiusura? Grazie alle diverse piattaforme hanno scoperto che negli ultimi 2 anni l'ascolto è cresciuto del 33%. Accidente, molto. E sono numeri importanti. Importante. Adesso senza entrare nei dettagli. No, no, perché non abbiamo tempo, altre, ma ci torneremo. Però è un segnale, quello che molto potrebbe importante accadere nei prossimi mesi. Ah, non certo, dico anche anni. Grazie, professore. Grazie. Adesso abbiamo un'intervista di Sara Tardelli su un nuovo programma dedicato al sesso che andrà in onda su Italia 1. Nina Palmieri, sei la conduttrice di X-Love, un nuovo programma che debutterà su Italia 1 il 17 febbraio e parla di sesso e sentimenti. Ma secondo te oggi sono ancora degli argomenti tabù? Tabù? No, con me gli italiani hanno sempre parlato serenamente di sesso, per cui poi parlarne una cosa, farle un altro, però già solo il parlarne, voglio dire, è già un passo avanti. Poi insomma il sesso è veramente dovunque, per cui mi sembra una cosa di comodo pensare che lo sia. Senti, ma invece l'educazione sessuale, che è un po' un'altra cosa, c'è? Sì. Ce l'hanno le persone, secondo te? In Italia siamo veramente, siamo il fanalino di coda in Europa da questo punto di vista, nel senso che i nostri cugini francesi, la Svezia, insomma tutti i paesi che ci circondano, in Germania, eccetera, l'educazione sessuale è materia scolastica, cioè fa parte del calendario scolastico, del programma scolastico, per cui noi no, e i ragazzini pur facendo sesso, pur divorando sesso attraverso i canali internet, attraverso YouTube, e tutta un'altra serie di cose che hanno a loro disposizione, poi non sanno niente, per cui non sanno quali sono i giorni fertili le ragazzine, per dirne una. Non sanno come si mette un preservativo i ragazzini che dichiarano di fare sesso. Ma c'è ancora qualcosa che lega le vecchie generazioni con quelle nuove, ad esempio nel modo di amare o di pensare l'amore? Nel momento in cui con questi ragazzini che sembrano così sfrontati, anche aggressivi, insomma molto sicuri quando parlano anche di sesso, quando andiamo a parlare d'amore diventano tutti rossi comunque, per cui credo che ci sia ancora un po' di pudore rispetto all'amore, proprio al sentimento, che è lo stesso che poi ho trovato anche tra le persone anziane. E invece quali sono gli ingredienti di X-Love, del tuo nuovo programma? Quali sono? Come affronterete queste tematiche? Guarda, noi raccontiamo storie, approfondiamo, sicuramente manteniamo l'ironia che appartiene anche alle Iene, perché poi questo è un programma fatto dal gruppo delle Iene. L'unica cosa appunto è che cerchiamo di raccontare l'amore in tutte le sue sfaccettature e sfumature, e questo non significa solo in positivo, ci sono anche delle storie magari di dolore, magari delle storie anche negative, la violenza sulle donne, che adesso per fortuna se ne parla un po' dovunque, per cui tratterete questi argomenti, insomma farete delle inchieste. Assolutamente sì. Dacci, visto che ci hai dato l'ingrediente di X-Love, adesso dacci i tuoi ingredienti per un amore perfetto. Guarda, se li sapessi sarei la persona più felice del mondo. Vabbè, dai, buttati. Non li useremo contro di te. Se posso fare l'elenco dei desideri, allora posso fare quello. Vorrei, allora, un uomo bello, perché quello lo voglio sempre, lo desidero, un uomo bello, un uomo che mi faccia sempre sorridere, che che capisca la mia ironia, che non sia geloso e che mi faccia soprattutto ridere dei miei difetti, che sono tanti. In bocca al lupo, allora. Grazie. Pietrangelo, c'è un sms per te. Dice: dica. Presentate una donna buttafuoco. Una? Ma è una. Solo una? Si limita, è lei che vorrebbe. Duilio Loi, il grande campione di box, l'uomo degli ultimi due round. Oggi racconteremo la sua storia, raccontata da, come sempre, da Marina Milone, che in chiusura intervisterà anche il grande campione Nino Benvenuti.